brilhante. Se provo a contare i giorni di questi anni che si fanno piccoli di. Il meccanismo è inciampato, ha reso grida.